Prima edizione. Sei 17 minuti e 14 secondi, brevemente una notizia che arriva dalla Nuova Zelanda. Ricorderete la vicenda dell'arresto di Kim Schmitz alias Kim.com. Chi è il fondatore del sito di web, il sito web di file sharing Mega Upload, che è accusato di violazione di copyright, per il quale gli Stati Uniti chiedono l'estradizione. Ebbene, dopo essere stato agli arresti dal 20 gennaio, è stato liberato proprio pochi minuti fa su cauzione dalla giustizia neozelandese. Adesso la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per un quadro delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Prima edizione. Sono le 6:19 minuti e 15 secondi, vediamo di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Inizierei dal Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al Partito Democratico e alle parole di ieri di Pierluigi Bersani, delle quali vi parlavamo già all'interno del GR. Bersani al Premier: il sì non è scontato. E Marcegaglia che dice il sindacato non protegga ladri e fannulloni è polemica. Il leader del PD avverte il capo del governo che sarà necessaria un'intesa con le parti sociali. Ci sono altri fronti aperti, in questo caso non tra il governo e la maggioranza, ma tra il governo e l'opposizione, in sostanza la Lega. Ad esempio, i permessi più lunghi agli immigrati e la Lega che dice assurdo. Anche questo è un titolo che porta in prima pagina il Corriere della Sera. C'è anche spazio dedicato ai redditi dei ministri, tutti i guadagni dei ministri. Come sapete, è una battaglia che il Corriere della Sera ha portato avanti a lungo tramite una delle sue firme, Sergio Rizzo. Redditi in testa Severino e Passera, Monti 1,5 milioni, e ci sono indicati i primi tre ministri per reddito, che sono appunto la Severino con 7 milioni, Passera con 3,5 milioni e Piero Gnudi, ministro del turismo e dello sport, con 1,7 milioni. Da segnalare il commento di prima pagina dedicato proprio alle parole di Pierluigi Bersani, questo sì non scontato alla riforma del mercato del lavoro, ed è a firma del vice direttore Dario Di Vico, e si intitola Riflessi condizionati. A centropagina c'è un titolo dedicato alle liberalizzazioni, perché sono in corso i lavori in commissione, come sapete. L'accordo bipartisan sulle liberalizzazioni per salvare i tassisti, così titola il Corriere della Sera. E poi assicurazioni, rimborso di piccoli danni più difficile. Cosa succede? Dice il Corriere della Sera: il numero delle licenze e le tariffe non saranno più decisi dall'autorità dei trasporti, ma dai sindaci, e per le assicurazioni appunto sarà più difficile farsi rimborsare i piccoli danni. C'è una centropagina foto di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy, un pezzo di Maria Laura Rodotà dedicato alla confessione di Madame Sarkozy, che ha detto che in sostanza che si piazza sul divano per la stanchezza del bambino, si piazza sul divano col bambino in braccio e si guarda una soap opera. A chi interessano queste vicende, naturalmente, la denuncia di Caselli contro i NoTav. Ecco, vi abbiamo parlato poco fa della vicenda delle contestazioni arrivate a Caselli da parte dei cosiddetti NoTav e dei nuclei antagonisti, che proteste sono sfociate in cose anche piuttosto in tafferugli, quantomeno nella giornata di ieri. Il titolo, il pezzo in realtà è un commento di Pierluigi Battista, ed è si intitola Difendere senza sconti la libertà di espressione. Si parla anche dei tre militari morti ieri l'altro in Afghanistan in un incidente stradale. Quei tre soldati italiani non sono morti di serie B, titola un pezzo in prima pagina a firma di Marco Imarisio. La Repubblica: lavoro, attacco di Confindustria, Marcegaglia, il sindacato difende ladri e assenteisti, la CGIL che dice offese gravi, in tono minore. Sulla prima pagina di Repubblica invece le parole di Pierluigi Bersani, che sono sopra nel cosiddetto occhiello. Bersani è il presidente del Consiglio, senza intesa non scontato il via libera del PD, ma si parla anche delle altre misure, decreto fiscale, per ora niente ICI sulla Chiesa, meno IRPEF nel 2014. A centropagina foto del ministro Severino accanto al ministro Passera, quindi quelli che hanno i due redditi più alti, e ecco i redditi online di tutti i ministri. Severino batte Monti e Passera a 7 milioni e il premier dichiara 11 milioni e mezzo di titoli. Centropagina, parla il ministro della Sanità Balduzzi. Task Force contro la mala sanità. Per lo scandalo al Policlinico sospesi due dirigenti. Entra nel dettaglio in merito alla questione liberalizzazioni e assicurazioni la Repubblica. Ci riporta la notizia in un pezzo firmato da Valentina Conte che per le polizze auto mai più risarcimenti per il colpo di frusta. Stop alle commissioni sui prelievi bancomat fino a 100 euro. Altre cose che troviamo... Ancora la questione di, ancora la vicenda di Caselli, naturalmente, e qua il pezzo è di cronaca. Bombe carta in centro, Notav a Genova che dicono Caselli boia, come già vi abbiamo raccontato, poco fa. Veniamo al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore titola a proposito della manovra in arrivo di questo decreto che dovrebbe riguardare anche il fisco, che dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì, da quel che si è capito. Venerdì al Consiglio dei Ministri il decreto fiscale, si allenta la stretta di Equitalia sui debitori con l'erario. Il titolo è nuove detrazioni per le famiglie. Monti, per il caro delle tasse bisogna aspettare il pareggio di bilancio, forse prima del 2014. Commento di prima pagina, firma di Salvatore Padula, riguarda proprio il fisco, ma non riguarda l'abbassamento delle tasse, bensì l'altro grande tema, ossia la semplificazione. Serve coraggio, semplificare serve coraggio, scrive Padula, e parla delle norme in arrivo, naturalmente di quelle che si conoscono dall'indiscrezione, da quel che riesce a sapere ovviamente il Sole 24 Ore, che spesso è parecchio. Alleggerimento per quanto riguarda le regole, si parla appunto di un alleggerimento a doppio binario sia sui controlli che sugli adempimenti. Naturalmente c'è un titolo dedicato anche alle parole della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia: il sindacato non protegga i fannulloni, e la Camusso che parla di parole offensive, si parla anche di, naturalmente, le parole di Pierluigi Bersani. Si va verso il rinnovo della presidenza di Confindustria, c'è un titolo dedicato anche a questo. Marcegaglia: teniamoci stretta la nostra associazione. Marchionne che dice: con Bomba 6 ci sono le basi per il nostro rientro all'interno di Confindustria. E poi si parla anche di Grecia: gli aiuti alla Grecia arrivano a 237 miliardi, conto più salato per i creditori. Per Draghi un buon accordo, il premier italiano che dice che è evitato il contagio. Il pezzo a firma di Carlo Bastasini: se uno Stato non è più sovrano. La Stampa titola anche qua sul Partito Democratico che gela Monti, il PD gela Monti. Si parla delle parole di Emma Marcegaglia di ieri sull'articolo 18 e la Camusso che parla di frasi offensive. Ampio spazio anche qua ai redditi dei ministri, e è tra i pochi quotidiani che riporta in prima pagina la vicenda, la nuova vicenda che riguarda l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, questo parliamo della Stampa, Dominique Strauss-Kahn. Strauss-Kahn di nuovo in cella, fermato a Lille per notti libertine con escort, tra le accuse la complicità in sfruttamento della prostituzione. Vi segnalo che la Stampa, così come gli altri giornali, danno conto, poi ne parleremo anche più avanti, della impresa del Napoli in prima pagina, che ha battuto il Chelsea 3-1. Questo è il quadro anche dalla Stampa. E poi si parla anche del decreto fiscale, meno tasse alle famiglie dal 2013, si parla dell'Europa, il via libera al piano di aiuti per la Grecia. C'è anche un'intervista a Luca Cordero di Montezemolo: bene il governo, ma ora meno carico fiscale sui produttori, chiede. Il Messaggero decide di aprire con l'accusa di Marcegaglia.

Sì, Simone, buongiorno. Beh, davvero quello che abbiamo visto ieri sera al San Paolo è un Napoli formato deluxe, mi viene da dire, un 3-1 che non ammette discussioni se non sul fatto che probabilmente i partenopei avrebbero meritato anche qualcosa in più. Eccezionale Lavezzi, puntuale come al solito in zona gol, ma anche come assist man Cavani, ma in generale è stata un po' tutta la squadra a mettere sotto un Chelsea apparso irriconoscibile, soprattutto in alcuni dei suoi senatori. Vale per tutti la controprestazione di Drogba, quel Lampard entrato solamente nei minuti finali, e vista l'esperienza che ha e anche la classe, avrebbe forse fatto comodo parecchio prima, e John Terry che addirittura non è sceso in campo causa un infortunio al ginocchio che probabilmente ora lo costringerà a un intervento chirurgico e a stare fuori per circa 2 mesi. Comunque, applausi a un Napoli che la coppia Mazzarri-Frustalupi ha disegnato alla perfezione. Ora attenzione a non distrarsi a Londra, perché l'area di Stamford Bridge ha sempre un'atmosfera particolare e Napoli deve rimanere concentrato e sfruttare al meglio questo vantaggio per costruire in qualche modo a suo piacimento, anche sotto il profilo tattico, la gara di ritorno. Resta da dire che stasera poi tocca all'Inter, che a Marsiglia si gioca un bel pezzo di stagione, e Ranieri di fatto si gioca anche la panchina. Ebbene, avessero i nerazzurri un briciolo dell'orgoglio e della grinta che hanno dimostrato ieri sera i napoletani, beh, davvero a quel punto Ranieri non avrebbe nulla da temere. Fischio d'inizio alle 20:45 sulla panchina dell'Olympique, tra l'altro una vecchia conoscenza del nostro calcio, l'ex juventino di Didier Deschamps, che muore dalla voglia di fare uno sgambetto ai nerazzurri. Staremo a vedere, Simone. Grazie Dario, vedremo che cosa succederà. Dunque, noi cambiamo argomento e parliamo di mercati. Lo facciamo con la persona che di solito ci accompagna in tutto questo, che è spesso almeno Luca Bagato, trader specialista sui mercati obbligazionari, amministratore unico di Macro Markets SRL, ufficio studi e analisi finanziari indipendenti. Buongiorno Bagato. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Allora, di cosa vogliamo parlare con lei? Soprattutto di questa bella notizia che è arrivata ieri e che sembra un ottimo segnale per l'economia americana, e che è questo Dow Jones che sfonda brevemente quota 13.000 punti. Che cosa succede? Sono fuori dalla recessione? Ma questo è quello che i mercati cominciano a pensare, effettivamente, a vedere soprattutto i settori che si muovono, quelli diciamo tecnologici, che sono di solito i primi a scattare, e poi soprattutto i settori appunto legati all'energia, in particolar modo all'alluminio. Ieri questa incredibile performance anche di Alcoa, che di solito è un titolo che si muove poco, con un più 2-6% sulle notizie di joint venture con questa China Power, danno l'impressione che l'America in questo momento abbia la liquidità e i numeri per continuare effettivamente un trend di rafforzamento dei profitti delle imprese, che sono già alti ma che sembrano proiettate ancora più in alto. E se ne sono fuori loro, è sperabile che ne usciamo anche noi? Ma infatti questo è il tema più importante per i mercati finanziari. In definitiva, nei prossimi 2 anni si guarderà di più ai numeri della crescita piuttosto che ai numeri di supporto dei piani di emergenza. Quindi se l'America ce la fa, in qualche modo tolte un po' le stampelle dall'Europa, di Grecia e Portogallo, è possibile poi che la crescita come indotto europeo nel prossimo anno sia un po' più alta anche in Europa. Abbiamo una pausa per la viabilità e poi voglio chiedere un breve suo giudizio sull'accordo sulla Grecia, che qualche impatto dal lato quantomeno del differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e i titoli di Stato tedeschi ieri sembra averlo avuto. Prima edizione. Sono le 6:47 minuti e 13 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Stavamo parlando di situazione dei mercati, del bel dato di ieri arrivato da Wall Street, ossia di questo Dow Jones sopra i 13.000 punti, e adesso con Luca Bagato, con trader specialista in particolare proprio sui mercati obbligazionari, e per questo ci interessa particolarmente la sua opinione su questo, un giudizio sull'accordo greco di ieri. Allora, un giudizio, diciamo così, sui numeri ci stiamo, nel senso che comunque si aspettava un accordo un pochino più corposo rispetto al pacchetto dei 110 miliardi precedenti, e questi 130 effettivamente, insomma, in qualche modo stanno per raggiungere l'obiettivo. Sulle questioni interne proprio del pacchetto non mi dilungherei più di tanto, però visto che abbiamo citato quello della crescita, i numeri, diciamo così, le ipotesi alla base del pacchetto sulla crescita greca sono veramente ottimistiche, quindi dobbiamo solo sperare che quello che cominciamo a vedere in America sia realistico anche per i prossimi anni, perché ci si attende una crescita greca, tolto il prossimo anno, con la contrazione dell'1%, intorno al 2.3 nel 2014. Un errore di solo un punto percentuale sono altri 100 miliardi di euro di manovra. Quindi il mercato ha un po' paura, chiaramente, che qui si sia toccati così da un eventuale pessimismo poi in corsa, che potrebbe richiedere effettivamente un intervento più massiccio dopo, e oltretutto ci si chiede cosa succede poi dal 2014 in avanti. Qualche analista a Londra ieri diceva più o meno serviranno altri 50 miliardi di euro almeno dal 2014, fino al 2014, quindi inizio 2015, fino poi al 2020. Alcuni miei colleghi dicono, di fatto, alcuni miei ex colleghi appunto sul trading obbligazionario dicono, ma così la Grecia in realtà non si presenterà più ai mercati almeno fino al 2030, quindi scordiamoci di vedere altre emissioni. Vedremo che cosa succederà. Grazie a Luca Bagato, trader specialista sui mercati obbligazionari, amministratore unico di Macro Markets SRL, e buona giornata. Buona giornata, arrivederci a tutti. Allora, adesso noi parliamo di una cosa che sta avvenendo in America, in il Black History Month, ossia il mese che parla della storia dei neri. Ebbene, ieri alla Casa Bianca è successo questo. Thank you everybody. Have a wonderful evening. Thank you so much. Give it up for our all-stars. Thank you so much. Naturalmente, la voce che sentite è quella di Barack Obama, ieri serata di grandissima musica alla Casa Bianca in occasione del mese appunto della storia dei neri. Ha ospitato un concerto al quale c'erano niente po' di meno che B.B. King e Mick Jagger, ossia un'icona del blues e un'icona del rock. Una delle cose che comporta essere presidente è che a volte avresti voglia di fare un giro. È esattamente quella di Obama. Così andiamo a chiudere questa puntata di prima edizione. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre. Ci risentiamo tra poco con il GR. Chicago.